Nexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Buongiorno a tutti, questa è Radio Next, io sono Pepe Moder e da oggi incominciamo con la prima puntata un lungo percorso attraverso la trasformazione digitale, ossia quello che sta accadendo nel mondo del business, delle aziende, degli imprenditori e dei manager, grazie o a causa del cambiamento dovuto al digitale e a quello che accade attorno a noi. Lo faremo attraverso interviste, incontri, chiacchierate con rappresentanti dell'azienda, rappresentanti dell'imprenditoria, lo faremo con professionisti del settore, lo faremo con persone normali. Andremo a chiedere, andremo ad indagare, andremo a scoprire il perché una nazione come la nostra, che negli anni 50, negli anni 60 è risorta dopo un conflitto mondiale, con un'ossatura, un backbone di piccole e medie imprese straordinario, oggi stia soffrendo così tanto nei confronti della competitività internazionale, trovandosi a dover competere su mercati con regole nuove, a regole diverse, che si fa veramente fatica a interiorizzare e a capire dove sta il valore e come fare in modo che questa trasformazione digitale, questo digitale, possa essere veramente utile al nostro business. Prima di tutto però dobbiamo farci una domanda: che cos'è la trasformazione digitale? La trasformazione digitale è un fenomeno evolutivo innovativo che impatta sulla sfera culturale, sociale e comportamentale degli attori di mercato ed è volto a generare un nuovo sistema di relazioni ed esperienze tra persone, aziende, governi e organismi sovranazionali. In particolare, in azienda incide e quindi trasforma i modelli di business, i processi e le organizzazioni che la rendono applicabile fino a creare una discontinuità, con l'obiettivo di dare vita a una nuova esperienza per il cliente. Come vedete, quindi, non abbiamo parlato di tecnologia, non abbiamo parlato di software, non abbiamo parlato di digitale, abbiamo parlato di un cambiamento forte, un cambiamento culturale, un cambiamento sociale che deve portare imprenditori e manager a incominciare a pensare e ad agire in maniera diversa. Questo lungo percorso ci porterà a parlare e a interrogarci insieme a degli ospiti, ospiti del mondo delle aziende, ospiti del mondo dell'imprenditorialità, ospiti del mondo delle startup, ospiti del mondo delle aziende che lavorano nel mercato del digitale. Oggi con noi c'è Gianfranco Di Maira, amministratore delegato di BTS Italia, è una società di consulenza che per anni e da tanti anni lavora all'interno di questo contesto e accompagna proprio le aziende lungo questo cambiamento. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a tutti. Allora, perché ti abbiamo chiamato qui oggi? Perché vogliamo parlare con te e vogliamo sapere da te, visto che tu comunque incontri e lavori con tanti imprenditori, con tante aziende, vogliamo sapere il tuo punto di vista sul perché in Italia si fa così tanta fatica ad abbracciare questo cambiamento, questa trasformazione. Partiamo da una prospettiva anche positiva, che insomma, non è tutto nero, no? Nel senso che ci sono anche un sacco di cose belle, no? C'è un sottotessuto di startup che stanno nascendo, anzi che sono nate, quindi insomma c'è anche molto molto positivo. Diciamo che noi vediamo dalla nostra prospettiva, lavorando con organizzazioni più o meno complesse, quello che vediamo è che questo divario è diverso a seconda che stiamo parlando della startup, stiamo parlando della piccola media azienda, stiamo parlando della medio grande azienda, no? E vediamo diversi diciamo fenomeni che accelerano o meno questa trasformazione. È un fenomeno di cambiamento, no? Quindi diciamo che anzitutto è un fenomeno di cambiamento, e come tutti i fenomeni del cambiamento, diciamo, il digitale è una di quelle cose che sta scaturendo, no? Resistenze o comunque anche accettazioni più o meno facili. Quello che noi abbiamo visto quando parliamo di cambiamento è che questi cambiamenti avvengono, dal nostro punto di vista, abbiamo osservato anche con ricerca in questi 25 anni, anche ingaggiando, no, istituti anche famosi come l'Economist nel fare delle ricerche anche a livello globale, che la maggior parte delle nuove strategie o di questi cambiamenti avviene o non avviene per via del fenomeno umano, no? Quindi un fenomeno culturale e comunque di comportamento. Quindi non è un problema di software: compro software, devo chiamare l'azienda, l'agenzia, l'installatore, lo sviluppatore. È un problema di cultura ancora. È un problema legato alle persone, cioè almeno il cambiamento avviene perché compri i processi, compri il software, implementi nuovi sistemi, eccetera, però laddove fallisce più frequentemente è perché le persone non fanno quello che il nuovo modo, in qualche modo, di lavorare ci mette condizione di fare. Quindi, cari imprenditori, cari manager, prima cosa da non fare è mandare le vostre persone al supermercato del digitale a comprare delle soluzioni che vengono considerate plug and play, cioè metti dentro la presa e questi funzionano come un frullatore per fare il frullato del digitale. Non funziona, no? Diciamo, non è come mettere un computer nuovo, no, all'interno della rete, è un'altra cosa. Noi abbiamo visto tre cose che lì effettivamente lo fanno più o meno funzionare, no? Se, ce le racconti? Sì, volentieri. Allora, una cosa è proprio un tema di allineamento, lo chiamiamo, cioè questa è un po' la nostra, un po' l'equazione che abbiamo tratto da questi anni di osservazione e ricerca. Allineamento cosa significa? Le persone all'interno di questa organizzazione, quindi che sia la piccola azienda, medio, grande che siano, hanno capito dove stiamo andando o dove sta andando il mercato, quindi in questo caso il digitale, verso dove ci sta portando? E abbiamo capito che ruolo io gioco all'interno di quella partita. Questo è un tema di allineamento. Primo tema. Quindi ci vuole una strategia o un pensiero abbastanza chiaro per sapere in quale direzione mi devo muovere. Esatto, cioè io come voglio giocare la partita, e questo è un tema sia dell'imprenditore. E allora non basta comprare, beh, lo metto tra virgolette ovviamente, uno specialista da fuori, portarlo in azienda, mettere in azienda e dire, boh, adesso tu sei arrivato, trasformami l'azienda in digitale. Sì, oddio, questo, insomma, abbiamo visto questo approccio è, diciamo, società molto note nel mondo della consulenza, giustamente, fanno questo lavoro, cioè fanno il modello magari anche di business, fanno il piano strategico e così via, ottimo. Ancora una volta però quello si ferma spesso a un piano molto alto e non cala comunque a livelli successivi, quindi il tema dell'allineamento non l'ho ancora comunque risolto, perché poi tutti gli altri devono essere in linea con quello. E non basta solo questo. Perché questo, non basta? Perché questo è solo il primo dei tre componenti dal nostro punto di vista. Il secondo è quello che noi chiamiamo mindset, ovvero una volta che facciamo finta che l'imprenditore ha un'idea illuminante, il capo azienda, l'amministratore delegato sa dove vuole andare, benissimo, tutti quanti l'hanno capito, non è detto che tutti quanti abbiano la stessa motivazione o comunque quel substrato, no, emozionale, di elementi per andare in quella direzione, il che vuol dire senso di urgenza, la motivazione, senso di priorità, paure anche, no? Resistenze, insomma, banalmente, cioè, ma questa cosa per me è difficile, è pericolosa, che cosa succede dopo, no? Cioè, c'è un buio, c'è un tunnel che non necessariamente tutti immaginano che cosa succede. Però i nostri imprenditori negli anni 50 e anni 60 hanno fatto un cambiamento radicale, sono stati il motore di un cambiamento radicale che non sapevano dove li avrebbe portati, hanno avuto coraggio. E dove è andato a finire questo coraggio? Allora, questo, tra l'altro, questa è una delle cose belle del nostro paese, no? Del nostro tessuto imprenditoriale, ed è una delle cose che fa un po' da distinguo, al mio parere, anche tra le piccole, che sono quel tessuto più dinamico, e anche quelle che sono un po' medio-grandi. Il tema è che sul digitale è una partita diversa, no? Peppe, poi tu sei l'esperto, quindi ci dirai e ci accompagnerai in questo percorso, ci farai capire. La partita è un po' diversa perché c'è un tema anche di scala e di osservazione che forse il piccolissimo si può anche perdere, quindi mentre da una parte il piccolissimo può avere un sacco di dinamismo a livello di business, non è detto che abbia tutta quella capacità di osservazione di un mondo che forse tu ci spiegherai in queste puntate, molto complesso, e che forse non basta, no, osservare da un singolo punto di vista. Vero, però è altrettanto vero che le startup sono piccolissime aziende che hanno determinato l'accensione del motore dell'economia della Silicon Valley, di altri hub internazionali tipo Shanghai, tipo oggi Berlino, Londra, Austin, Seattle in America ancora. Ecco, ma che differenza c'è allora tra le startup americane e le nostre piccole aziende? E non solo le piccole aziende, secondo me anche quelle, oddio, le startup, le nostre startup sono, secondo me, possono giocarsela bene anche con altre startup. Ci manca magari un po' di substrato, no, di sistema, che non le aiuta quanto magari la Silicon Valley o la Food Valley o in Israele altro tipo di infrastrutture. C'è un tema proprio di modalità di pensiero, no? Che è differente. Il nostro imprenditore o anche il nostro manager, quello di successo, fa una cosa molto interessante, come fanno anche le startup, cioè inizia a sperimentare, no? Cioè inizia comunque a prendere dei piccoli rischi, inizia a guardare che cosa succede fuori e prova a contaminarsi, no, con quello che può portare all'interno. questa cosa, che sia una startup, che sia una piccola, media o grande azienda, è una cosa che oggi noi stiamo facendo poco, no? Cioè la capacità di contaminarci e portare dentro. Ci siamo seduti un po'? Ci siamo un po' accontentati dell'essere usciti dopo un periodo difficile, dopo la Seconda Guerra Mondiale, d'essere usciti dalla povertà e di essere diventati un paese occidentale? Cioè tu vuoi dire non abbiamo più fame? E questa è la mia grande paura, no? Una delle grandi frasi molto semplici che Steve Jobs ci ha insegnato e che disse a Stanford 20 anni fa ormai, disse: siate sempre affamati e abbiate sempre quel pizzico di follia che vi permette di uscire dagli schemi normali. Allora, sicuramente una parte del, no, del film è questa. Forse alcuni sono anche schiacciati da un peso della sopravvivenza e non riescono ad alzare la testa per fare un pensiero un pochettino più strategico, no? Perché comunque mettiamo anche in conto che ci sono imprenditori bravissimi che oggi magari, non avendo anche quella cassetta degli attrezzi, che poi era il terzo, diciamo, elemento, no, della nostra equazione che avevamo iniziato poco fa, magari non hanno neanche la capacità di vedere tutto quello che sta succedendo per poi dopo reagire di conseguenza. E quindi, come spesso accade, no, io la chiamo la sindrome del criceto: corri, no, come quando nella ruota, no, il nostro criceto corre ma è sempre lì. E allora lì bisogna riuscire a fermarsi un attimino, no? Tra l'altro tu stesso mi raccontavi un caso bellissimo, no? dell'amministratore delegato di GE, General Electric, fermarsi magari 6 mesi, non ce lo possiamo permettere tutti, no? Come l'amministratore delegato, ma è il principio sottostante che è importante, cioè fermarci un attimo e cercare di vedere le cose in modo un pochettino più ampio, per cercare anche magari di dargli proprio un intento strategico un po' diverso, no? E poi quello che succede, come sempre accade, quello che ci sta insegnando gli ultimi 5-10 anni, no? Anche di rivoluzione industriale, della nuova rivoluzione industriale, è che è con le piccole cose fatte molto rapidamente che puoi fare anche grandi cambiamenti, no? Non è che devi fare alla GE che ti fermi per 6 mesi e torni indietro con the big idea, no? Secondo te c'è ancora tempo per il tessuto industriale italiano di rimettersi in gioco, o abbiamo in parte o in toto perso il treno? No, io sono ancora uno che sogna positivamente, crede positivamente. Abbiamo un tessuto di persone che è straordinario, cioè noi lo vediamo nelle medie e grandi aziende, straordinario, cioè la capacità, la creatività, la resilienza, cioè tutte le competenze, chiamiamole così, manageriali, tecniche, eccetera, sono straordinarie nel nostro paese. Quindi secondo me possiamo ancora fare tantissimo. Il tema è provare anche a noi siamo un po' che ogni tanto guardiamo soltanto il nostro, no? Allora il tema è come connettiamo magari anche, no, queste capacità, competenze, magari anche creando quelli che sono creando un po' di scala che permette di anche competere forse a livello più solido con chi è già più organizzato di noi, no? Sì, parleremo anche durante le nostre puntate da qui, insomma, per tutto l'inverno e poi in primavera andremo a parlare anche dei nuovi metodi, delle nuove modalità di lavoro, quindi parleremo di lavoro agile, parleremo di design thinking, parleremo di fast prototype, parleremo di modi di lavoro differenti che sono scaturiti da modi di pensare differenti. Parleremo anche di come le imprese devono necessariamente aprirsi al loro ecosistema digitale, al loro ecosistema che poi è anche digitale, ma al loro ecosistema, andando a collaborare con tutti gli attori parte dell'ecosistema, dai fornitori ai clienti, ad altri stakeholder, le università, per cercare di costruire con un risultato che è superiore alla somma dei singoli elementi. Quali sono i consigli o i suggerimenti che allora a questo punto tu daresti a un manager o a un imprenditore che oggi ci sta ascoltando alla radio e che si sta domandando: bene, ok, mi state dando dell'asino, mi state dicendo che io come imprenditore che ho costruito questa società, che è andata benissimo e che non mi sembra che alla fine stia perdendo quote di mercato, alla fine me la sto cavando senza il digitale, senza quello che voi come dire, mi state presentando come un pericolo, cosa devo fare io a questo punto? Allora, intanto no, io non mi sono permesso di dare dell'asino a nessuno, anzi no, Pepe. Si scherza, si provoca, certo. Ma per tirare fuori, come dire, la voglia di fare ancora di più e ancora meglio. Bravissimi imprenditori, bravissimi manager. Allora, il cambiamento migliore avviene quando le cose vanno bene. Quando le cose stanno andando male è troppo tardi, no? Quindi la prima cosa che direi è osare a ad attivare delle sperimentazioni, ad avere la curiosità di guardare che cosa succede mentre le cose vanno bene, perché quello è il momento migliore per fare un rilancio di cose nuove. Sperimentazioni di che tipo? Parliamo di open innovation, parliamo di osservazione, la curiosità di guardare che cosa sta succedendo fuori da un punto di vista proprio di trend tecnologici, digitali, ma anche proprio ognuno nel proprio spazio, insomma, che tipo di prodotti si stanno lanciando, non soltanto fatti di prodotto ma con tutti quelli che sono gli elementi secondari, accessori. Però ti racconto il fatto di un'imprenditrice di cui non faccio il nome, a cui, come dire, ho immensa stima, la quale mi ha raccontato: sì, io faccio quello che viene definito seeding, cioè investo in piccole startup piccoli per imparare. E gli dico: ma allora perché non lo porti in azienda? E no, perché primo distrarrebbe il lavoro delle persone, secondo perché non vorrei che le persone della mia azienda che sono dedite a fare un certo lavoro incominciassero a pensare di doverlo fare in maniera diversa. Io poi non posso pensare di dover gestire questo cambiamento in azienda. Allora fai quello che hai sempre fatto, direi a questa imprenditrice. Ecco, però la mia paura è da qui che nasce il desiderio e la voglia di chiacchierare con gli imprenditori, di raccontarci, sfidarci su nuove tematiche, nasce proprio da questo. La mia paura, il mio timore è che fuori di qua ci sia un mondo che sta diventando sempre più competitivo e che spesso non ci rendiamo conto che sta bussando alle porte del nostro cliente, e ce ne rendiamo conto solo quando arriviamo di fronte al nostro cliente e troviamo la porta aperta e il cliente che è già uscito. Guarda, una cosa che abbiamo visto essere, faccio riferimento alla battuta sull'imprenditrice, una cosa che abbiamo visto essere straordinaria è che se tu valorizzi quello che proprio hai già in azienda dal punto di vista di capitale umano, in realtà scopri di avere già tanta di quella conoscenza tacita che semplicemente portata dentro ti può dare un sacco di idee nuove. Paradossalmente succede questa cosa nell'organizzazione, cioè le persone fuori dal contesto lavorativo, ognuno sa gestirsi benissimo la sua giornata, sa gestirsi benissimo le sue ferie, sa gestirsi benissimo il suo budget annuale, no, tanto pochi che siano, no, i propri stipendi, comunque ognuno si gestisce molto bene quella che è la propria vita. Poi chissà perché arriviamo nelle organizzazioni, no, all'interno del nostro posto di lavoro, è come se spegnessimo dei pezzi di azienda, di cervello. Non è la persona che li spegne, a volte sono proprio i vincoli che mette un capo, mette un imprenditore che li fa spegnere. Cosa intendo, e cerco di renderlo un pochettino più concreto. Racconto una storiella, no? Una grandissima organizzazione del nostro paese, una delle aziende più famose del nostro paese, a un certo punto, no, mi chiama il responsabile, il direttore del personale, no? Parliamo di decine di migliaia di dipendenti. Dice: ma Di Maira, ma secondo lei che sta vedendo, no, di diverse delle nostre persone, la vostra organizzazione vede diverse delle nostre persone, siamo innovativi o non siamo innovativi, no? Tra l'altro non c'ero solo io, c'erano anche altre persone, e iniziano tutti a dire: non lo siamo. E io ho detto: allora, scusatemi, se mi consentite, in realtà secondo me le vostre persone lo sono. Però cosa succede? Se gli chiedi una volta, no, di tirar fuori una bella idea e immediatamente dopo gliela cassi e gli tiri comunque una randellata sulle mani. Questo la seconda volta, anche per eccesso di zelo, ci riprova e gli dai un'altra martellata sulle mani. La terza volta, con grande fatica, questo tira fuori un'altra idea e ci vai a gamba tesa. La quarta volta questa persona dice: vabbè, ho ma capito, anche no, faccio anche solo quello che mi chiedi, punto e basta, no? Allora, le persone hanno, soprattutto se guardi dove ci sono 10, 100, 1000 persone, c'è un tanto di innovativo possibile, potenziale, che le persone possono tirar fuori. Il concetto è non mettergli per forza un perimetro chiuso, troppo chiuso, di quello che possono fare. Alcune organizzazioni dicono: no, da noi Facebook non si può usare al lavoro. Beh, è una scelta, no? Legittima, per carità, rispettosa. Ma ormai le persone, soprattutto le persone di una generazione comunque un pochettino più giovane della tua e della mia, non distinguono più così tanto tra il lavoro e la vita privata, e questo in realtà lo puoi vedere come una minaccia, ma lo puoi vedere come una grandissima anche opportunità, perché ti portano un sacco di cose della loro vita nell'organizzazione che ti può essere funzionale per quello che sono nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi modi di lavorare, nuovi go to market. Puoi tirar fuori enormemente da quello che c'è, no? Dal capitale umano che c'è. Quindi lasciare la libertà alle persone di pensare e di contribuire. Poi è responsabilità anche del capo, dell'imprenditore, del manager, saperle incanalare ed essere preparato anche lui per saper valorizzare quelli che sono i contributi. Ringraziamo allora Gianfranco Di Maira. Mi piacerebbe ascoltarvi, mi piacerebbe ricevere le vostre domande, le vostre riflessioni, le vostre provocazioni. Potete farlo via mail alla mail radionext@radio24.it. Diventeranno argomento di discussione insieme con i nostri ospiti e anche con voi.